Allora, la volta scorsa ci siamo fermati qui. Facciamo un breve riassunto. Abbiamo visto le tre prove a cui Israele è stato sottoposto nel deserto. Prove che poi Gesù ha in qualche modo ripercorso e rivissuto nella sua personale esperienza di deserto e di tentazione nel deserto. Abbiamo visto la manna, l'acqua e il vitello d'oro. Ecco. Oggi vedremo insieme l'episodio che è richiamato dal Vangelo di Giovanni, in particolare, che ha partecipato agli incontri biblici dell'anno scorso, che è quello del serpente di bronzo, perché oltre a queste tre prove c'è stata un'altra grande esperienza critica di Israele nell'episodio appunto del famoso serpente di bronzo, che adesso andiamo a leggere, perché questa è una grandissima catechesi per ciascuno di noi. L'incontro di questa, sera, lo dico ai presenti perché abbiamo cambiato giorno, quindi ci sono un po' di persone in meno, vedrete che è molto importante, perché la cosa veramente sconcertante e molto bella è che attraverso tutte quante queste esperienze che Dio ha permesso o ha voluto che Israele facesse nel deserto, c'è scritto il libro della nostra vita. Questo è proprio uno specchio su cui continuamente confrontarci, sia in questo episodio del serpente di bronzo, sia anche, questa sera concluderemo la sessione dedicata a Mosè e all'Esodo, con alcuni passi del libro del Deuteronomio. Il Deuteronomio fa una lettura teologica di tutto quello che a Israele è accaduto, e vedrete che ci sono veramente dei passi che sembrano realmente parlare della nostra esistenza, quindi sono episodi a contenuto altamente esistenziale. Ora, andiamo a leggere un attimo insieme l'episodio del serpente di bronzo, che è numeri 21:4-9, ecco, in modo tale che così poi possiamo commentarlo insieme. Allora, tutti ci vedete bene, eh? Quindi leggiamo dal versetto 4. Gli israeliti si mossero dal monte Hor per la via del Mar Rosso, per aggirare il territorio di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo, questa è la nuova traduzione, serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questo serpente, questi serpenti. Mosè pregò per il popolo e il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta, chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Vi ricordate il discorso di Gesù con Nicodemo, scusate, nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 3? A un certo punto gli dice: Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, questo è l'episodio a cui fa riferimento, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Quindi Gesù stesso dà di questo episodio, cioè il serpente innalzato sull'asta, è una tipologia, quindi una figura tipologica della morte in croce di Gesù. Svalvolon, va bene. Quindi dobbiamo decodificare bene questi simboli, no? Allora, qui ci stanno di nuovo delle mormorazioni. Qui c'è la catechesi del nostro vescovo sulla lamentosi. Allora, che è fondamentale. La lamentosi, io ogni tanto litigo anche con quando noi ci lamentiamo delle circostanze della vita, di quello che accade, di questo, di questa, ce la prendiamo contro il Padre Eterno. Una persona che è scontenta, una persona che si lamenta, che è sempre tutto storto, che è sempre qua e là, se la sta prendendo col Padre Eterno, perché chi governa gli eventi della nostra esistenza, o con volontà positiva, cioè volendo, come dire, intenzionalmente alcune cose, o quantomeno con volontà permissiva, permettendo che alcune cose accadano, è Dio. Quindi dici, ah, ma io non ce l'ho mica col Padre Eterno, però sto facendo questo e mi sarebbe piaciuto fare quest'altro, sto facendo quest'altro e mi sarebbe piaciuto fare... Vedete come dice molto bene, abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te, contro il Signore anzitutto, prima ancora che contro di Lui. Quindi bisogna fare estrema attenzione che... di imparare ad adorare i disegni di Dio nella nostra esistenza. Qui ci siamo dentro tutti quanti, cioè io vi ho detto tante volte, oggi c'è un sacco di gente che girondola per i psicologi, per le cose, eccetera eccetera. Allora, dentro la nostra esistenza ci sono tanti buchi neri, tanti, ci sono tante situazioni che se uno ripensa a quello che ha vissuto dice, però se mio padre era così, se mia madre era così, se mio nonno era così, se mio marito era così, se mio figlio era così, se mia moglie era così, ci sono tante cose che noi non abbiamo mai accettato. La fonte di tante nostre insoddisfazioni, di tante nostre frustrazioni, di tante nostre cose si trova lì. Quello non te lo guarisce lo psicologo. Devi imparare a compiere una lettura teologica delle cose che sono successe. A volte il Signore qualcosa te la fa capire, altre volte non te la fa capire, ma non fa niente. Cioè, tu devi imparare, tu ed io dobbiamo imparare a adorare Dio nelle vicende della nostra esistenza e a dire in ogni circostanza benedetto sia il Signore. Io conosco persone che hanno avuto delle esistenze abbastanza, come dire, travagliate, e uso un eufemismo, che sono guarite e si sono riconciliate perfettamente quando sono state capaci di dire benedetto sei tu Signore. Vedete, che sono sti serpentelli? Il serpente è sempre un'immagine del diavolo. Il serpente vuol dire che è un'immagine antropomorfica, cioè chi sta in questa situazione viene morso dal serpente e muore. Cioè, questo stato di ribellione profonda e, come dire, profonda e a volte strisciante, nascosta verso la nostra esistenza è la fonte della morte del nostro io, della morte interiore, cioè capite? Quando una persona non è felice, non è contento, non dice, cioè ci sono delle situazioni che non sono riconciliate, d'accordo? Allora, o ci stanno dei peccati, mi dovete credere queste cose qua, quando uno è infelice ci sono due possibilità, o non ha confessato alcuni peccati gravi e non se ne è pentito, oppure ci sono state delle cose brutte che ha vissuto, che ha subito e non ci si è riconciliato, sono una di queste due cose, non ce ne stanno altre. Allora, come mai che uno guarì, che cos'è quest'altra col serpente sopra? È una figura della croce. Io ci ho pensato le prime volte, dice, ma che cos'è sta cosa qua? Allora, dovete provare a fare uno sforzo di immaginazione, no? Perché se tu prendi un'asta e sopra ci metti un serpente, sembra quasi che quest'asta trafigge il serpente, uccide il serpente. Allora, questa è una tentazione profonda, questa degli israeliti. La tentazione profonda è di rifiutare la nostra vita così come è andata, così come Dio ce l'ha tracciata, anche permettendo a volte che, perché Dio scrive dritto anche sulle righe storte, dice, ma ho combinato un sacco di guai, ho combinato un sacco di peccati, benissimo, anche attraverso quel sacco di guai, quel sacco di peccati, Dio può scrivere dritto. Ecco. Quindi uscire da questa logica è una tentazione mortale. Questo serpente deve essere ucciso, deve essere, capite? L'immagine dell'asta verticale è proprio l'immagine di qualcosa che ammazza sto serpente. Questo serpente è stato ammazzato dalla croce di Gesù. Perché? Perché uno degli aspetti, forse non ci abbiamo pensato tanto, della croce di Gesù. Voi provate a entrare nel cuore di Gesù, nella mente di, cioè voi vi rendete conto di chi è quello che è andato in croce? Cioè Gesù ha dovuto fare un'obbedienza terribile, terrificante. Noi che non siamo capaci neanche di accettare una rispostaccia da parte di qualcuno, una piccola umiliazione, quello era il figlio di Dio, quello lì. Ma capite, noi non ci rendiamo conto di cosa sia essere il figlio di Dio, eterno, adorato dagli angeli, tutti quanti, che ha dovuto per obbedienza affrontare quella morte orrenda. Quanti motivi c'aveva di lamentarsi al nostro Signore? Ecco perché ha ammazzato il serpente. E Dio gli ha chiesto proprio l'assurdo, insomma, Dio Padre, cioè una cosa assolutamente proprio portata all'estremo, proprio per liberarci da questo fatto qui. Cioè nessuno può mai dire davanti, cioè capita una disgrazia e Dio dov'era? Dio non esiste. Dio non era Dio, che doveva di Gesù Cristo in croce? Scusate se sono così, che doveva di Gesù Cristo in croce? Uguale a Dio, l'innocente per antonomasia. Allora, il serpente, cioè il nemico della nostra salvezza, che poi ci fa ribellare contro il Signore, e guardate che ribellarci contro la nostra storia, facciamo un altro passaggio ancora, è di fatto negare che Dio ci vuole bene. Perché se Dio mi avesse voluto bene, non mi avrebbe fatto nascere in quella famiglia, non mi avrebbe fatto avere un padre come quello, non mi avrebbe fatto avere una madre come quella, non mi avrebbe fatto subire quella violenza, non mi avrebbe fatto fare quelle brutte compagnie, quelle cose, quell'incidente, quella situazione, eccetera. Capite perché è così grave questa cosa? Il peccato originale, se voi ci pensate, c'era sempre il serpente intorno all'albero. La molla da cui è venuta la rovina dell'uomo è stata questa qui, cioè il diavolo ha insinuato a quei due, dice: perché non dovete mangiare? Ma perché Dio ci ha detto che se facciamo questo moriremo, quindi il comando di Dio è finalizzato al nostro bene. Ha detto: ma che dite, non si muore per niente, anzi Dio va proibito di fare questa cosa, perché sa che se la farete diventerete come lui. Quindi la cosa molto profonda, quella che scava dentro, è: non è che Dio è un tuo alleato e vuole il tuo bene, Dio è un tuo nemico e ti opprime. Guarda, e questo sta dietro tutti i peccati che abbiamo fatti, dietro tutti i peccati che abbiamo fatto, c'è sempre questo pensiero. Santo Tommaso dice che l'uomo non peccherebbe se non fosse ingannato, nel senso che non vedesse dietro il peccato quell'aspetto positivo che anche nel male c'è. Pensare a tutti quanti i peccati che si possono fare. Allora, questa è una cosa importante, quindi dinanzi a queste cose l'unica salvezza è guardare Cristo crocifisso, non è guardare per vedete, chi guardava il serpente guariva, non è lo sguardo, ecco, sapete che c'è differenza tra vedere e guardare. Un santo prete una volta mi fece una bella predica, perché noi vediamo tantissime cose, ma quando uno guarda è un vedere attento. È un vedere per capire, è un vedere per contemplare, è un vedere per fare proprio. Cioè, il crocifisso si guarda, non si vede. Quindi si guarda facendosi la meditazione, ecco. Perché quando io guardo Cristo crocifisso, di che mi devo lamentare? Dico, vediamo chi è che si può lamentare dinanzi a Cristo crocifisso, alzi la mano. Chiunque. Chi si può lamentare dinanzi a Cristo crocifisso? Mi fa male la gamba, mi fa male la testa, mi fa male l'orecchia. Chi si può lamentare dinanzi a Cristo crocifisso? Nessuno. Ecco, quindi questo episodio è, vedete come dietro la figura ci stanno delle realtà molto molto profonde. Questo è un fatto molto molto serio, molto molto grave. Cioè la vita di un cristiano è una vita di rendimento di grazie continuo, cioè Dio si trova nella lode. Se voi faceste la liturgia delle ore, le lodi, le vespri, i santi, tu sei grande, Signore, tu hai fatto bene tutte le cose, mirabile la tua potenza, mirabili sono i tuoi disegni, le tue vie sono meravigliose, sono spettacolari, questo sì, ma questo non sono chiacchiere, cioè questo deve diventare carne della nostra carne, vita della nostra vita. Per questo i lamenti, i musi lunghi, le tristezze, le cose, non esistono. San Giovanni Bosco dice: in cosa consiste la santità? Nello stare molto allegri, lo sapevate? Ma non è lo stare allegri come i deficienti, perdonatemi l'espressione, che stanno lì, che ridono come cretini, che fanno i buffoni o che fanno le battute quando si va a mangiare la pizza con gli amici. È l'allegria profonda del cuore, che va sempre bene anche quando va bene niente. Se leggete le vite dei santi, sono tutte quante così. Oggi dei santi, io ne ho lette alcune, facevano delle penitenze proprio massacranti. E chiunque le vedeva erano sempre tranquilli, sereni, quelli si erano andati a massacrare per 6 ore, che non so come non sono morti dissanguati, che non gli è venuto il tetano, poi si vestivano, uscivano, sorridenti, tranquilli. Se qualcuno c'era qualche piccolo problema, povera stella che hai fatto, gli faceva male il lobo di un orecchio, povera stella che hai fatto, andiamo subito a medicarci, quella era stata massacrata per 6 ore, povera stella che hai fatto. Tutti così. Quindi dobbiamo un attimo pensare un po' a queste cose qua, per fare un po' di buone e sante considerazioni. Allora, andiamo avanti, che se no qui non finiamo neanche oggi. Sta sparendo tutto, sì, che qua non coso. Ok. Acci picchia, c'è l'alleanza adesso. Allora, durante il cammino nel deserto, tappa fondamentale è l'alleanza, perché Dio prende questa situazione, questo popolo schiavo in Egitto, lo tira fuori, gli fa fare un cammino di purificazione, dopo vedremo la lettura teologica che ne dà il libro dell'Esodo. Il cuore di questo cammino è l'alleanza, cioè io gratuitamente, perché c'è sempre, qui c'è tutta quanta la teologia della grazia anche nel libro dell'Esodo, cioè Dio ci ha salvato senza nessun nostro mezzero. La giustificazione è completamente indipendente dalle nostre opere, è gratuita, cioè Dio ti prende l'iniziativa, ti tira fuori dai guai, a volte senza che neanche tu gliel'hai chiesto, perché c'è qualcuno che l'ha chiesto per te, non l'hai chiesto tu, ti tira fuori dai guai, ti fa cominciare un cammino, a un certo punto gli dice adesso facciamo una, che vuol dire un'alleanza? Un'alleanza è un patto bilaterale, d'accordo? Che c'ha due contraenti. L'alleanza vuol dire tu mi dai questo e io ti do questo. Ma l'alleanza del decalogo è molto semplice, questa vale tuttora oggi, perché ci sono, non vi arrabbiate, le vite benedette e le vite maledette, ci stanno anche oggi. Dio ha detto vuoi avere la vita, quindi vuoi avere la mia, che avere la vita vuol dire vuoi avere la mia benedizione, devi fare queste cose e non fare quest'altre. Fa questo e avrai la vita, non fare questo e avrai la morte. Ci sono tanti passi, andateveli poi a leggere nel libro dell'Esodo dei Numeri, dove Dio dice testualmente questo, in riferimento al decalogo e al resto del codice dell'alleanza che contiene nei capitoli 21 e 22 dell'Esodo e che riguarda particolarmente i precetti verso il prossimo. Dice guarda, io pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, la benedizione e la maledizione, sta a te quello che vuoi scegliere. Quindi fondamentalmente il decalogo è un cammino di benedizione, certo che comporta uno sforzo, diciamo, una serie di cose, tu non puoi fare come ti pare, devi convertire prima la mente, poi il cuore e poi la volontà a quello che ti viene detto nel decalogo e metterlo in pratica. Nel libro del Deuteronomio, che tra poco vedremo, bada di ascoltare queste norme e di metterle in pratica. Il verbo ebraico, me lo ricordo ancora, è asà, è il verbo fare, cioè fare proprio come cosa che si vede, quindi lo devi proprio mettere proprio in pratica, la devi fare bene. E in cambio c'è la benedizione dell'Altissimo. San Paolo nel Nuovo Testamento, questo vale anche per noi, dice una frase, ve l'ho detta tantissime volte fino alla nausea, mi pare il 8:29 della lettera ai Romani, dovrei ricordare a memoria la citazione. Dice queste parole: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Qui tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Coloro che amano Dio sono quelli che osservano i 10 comandamenti. Se mi amate, dice Gesù nel Vangelo, osservate i miei comandamenti. Quindi, se tu stai nella benedizione, noi lo diciamo oggi, vivere in grazia di Dio, puoi stare sicuro che tutto, ma proprio tutto, concorre sempre al maggior bene. Quando tu stai fuori della volontà di Dio non lo puoi sapere se realmente tutto concorre al maggior, non ne puoi essere sicuro. se vi leggete, io rimasi molto sconvolto tempo fa, quando leggendo tutti questi libri dei mistici che vedono nel purgatorio, tipo Maria Simma, tipo Natuzza, mi ricordo l'episodio, adesso mi ricordo, l'ho letto, dice: quel ragazzo è morto di incidente a 25 anni, ma nel piano di Dio avrebbe dovuto camparne altri 40. Se tu fai una vita out, completamente fuori, cioè, questo episodio fa comprendere come noi siamo realmente liberi e come noi realmente ci scriviamo con il nostro libero arbitrio e con le nostre liberazioni l'esito della nostra vita terrena. Cioè, Dio ha dei disegni, ha dei piani, ma il modo con cui questi piani ci intercettano e si propongono a noi non sono da intendere come il grande burattinaio, cioè noi siamo completamente passivi di fronte a Dio che ci muove in tutto quello che facciamo. Non è così. È come il regista di fronte a un film, cioè il regista lo dirige, ma se l'attore non fa quello che dice il regista, il film non si fa. Se dice fai così, fai colà, fai questa mossa, fai questa espressione, quello va al contrario, il film non si fa, viene uno schifo. Ecco, sono immagini umane, insomma, però per farci capire, no? Quindi, la prima cosa, Dio dà il decalogo, Esodo 20, i 10 comandamenti, e poi ci sono tutti quanti i lunghi precetti del codice dell'alleanza, i precetti riguardanti il prossimo, l'orfano, la vedova, il forestiero, eccetera eccetera. Andatevi poi a vedere con calma, vi ho detto già tante volte che non c'è tempo di leggerli tutti. Poi c'è una lunghissima sezione che sono gli ultimi 15 capitoli dell'Esodo e tutto il libro del Levitico, quindi pensate, che riguarda i precetti riguardanti il culto, minuziosissimi fino ai minimi particolari. Grande richiamo per ciascuno di noi, sia per i sacerdoti sia per i presenti. Cioè, se vi andate a leggere quei capitoli o un intero libro, il libro del Levitico, ma addirittura prescritto come deve essere la padella su cui si offrono i sacrifici, quanto deve essere grande, quanto deve essere grande, quanto deve essere lunga, di che materia deve essere fatta. Cioè, se ci avete pazienza, io l'ho letta tutta la Bibbia, quindi mi dico, andatele a leggere, vedete se riuscite a leggere di seguito per più di due capitoli senza che vi si fa una testa grossa così. Cioè, sul culto è prescritto il minimo, fino al minimo particolare. Questo fa comprendere quanto è importante il culto da rendere a Dio. Oggi questo non è che è tanto chiaro, e faccio sempre, perdonate il paragone tra la messa antica e la messa nuova. Nella messa antica la libertà di un prete, sapete quanto era? Zero. Zero. Cioè, i minimi movimenti erano prescritti. Ma tutto, cioè, se voi partecipate a una messa in rito antico e vedete come si muove un prete, sappiate che tutto quello che fa, se la celebra bene, è tutto scritto. Devi appoggiare le mani sull'altare, le dita sull'altare, devi mettere le mani così, devi tenere le mani così, devi stare inclinato, devi stare piegato, devi stare dritto, devi stare in ginocchio, quante genuflessioni fai, quanti segni della croce fai, tutto. E la stessa cosa vale per i fedeli: si sta in ginocchio alle preghiere, ai piedi dell'altare, poi si sta seduti, poi si rimette in ginocchio, poi si rimette. È tutto prescritto. Adesso è tutto etereo, cioè, non è che voglio tirare sempre l'acqua al mio mulino, però la rivelazione, questa è la Bibbia, ci dice che ciò che attiene al culto non si può lasciare all'improvvisazione, non è che uno può fare come ci pare. Oggi, per esempio, nella messa nuova ci sono molte, adesso voi siete imparati tante questioni, ma oggi nella messa nuova non è prescritto quasi nulla. Quanta gente si va a fare la comunione e poi se io me lo ricordo, e poi si mette seduta? Cioè, uno dovrebbe un attimo capire che se c'hai dentro di te Gesù Cristo non è bene che ti metti seduto. Però mentre nella messa antica si sa che si sta in ginocchio prima di fare la comunione e dopo, perché all'Agnus Dei suona il campanello e tutti in ginocchio, per forza, adesso non è così. Io l'ho detto in qualche predica che prima di fare la comunione è bene che quando si sta alla New Stage cioè si metta comunque, pure se non è prescritta. E dico sempre alle prediche della prima comunione che quando si torna a posto si sta seduti. Ma non c'è. Quindi, questo per comprendere le cose attinenti al culto, gli abiti del sacerdote, come doveva andare vestito, quante volte doveva lavarsi prima di entrare, prima di uscire, veramente una cosa impressionante, come era fatto il Tempio. Cioè, allora non c'era ancora il Tempio di Gerusalemme, c'era una tenda mobile, tutto prescritto, quante tovaglie ci stanno, come deve essere fatto l'altare, quante volte deve essere unto, la cortina, le cose, il razionale, il velo del sesto, tutto, tutto. Non c'è neanche una virgola lasciata al caso, neanche una virgola. E poi, ecco, questo dobbiamo andare a leggere, quindi tutto quanto il libro del Levitico che è dedicato al culto, è tutto il libro del Levitico. E poi il cuore della Torah, quindi della legge proposta all'alleanza, è descritto in Deuteronomio 6, che adesso dobbiamo andarlo a leggere per forza, necessariamente. Adesso torniamo indietro, lo andiamo a cercare, perché è proprio il cuore. Tutti penso che più o meno, spero, conoscano queste parole. Ecco, questo che stiamo leggendo, ogni più israelita e anche Gesù con lui se lo leggeva 3 volte al giorno. Erano più bravi di noi, gli ebrei ci danno ancora i punti, la mattina, a mezzogiorno e alla sera. Quindi chi non fa le preghiere del mattino e della sera, che già è meno di quello che fanno gli ebrei, è proprio un disastro totale. Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore vostro Dio ha ordinato di insegnarvi perché li mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Perché tu tema il Signore tuo Dio, perché li mettiate in pratica, quel verbo che vi ho detto prima, mettere proprio... Perché tu tema il Signore tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio, ha responsabilità del padre, chiusa parentesi, minima, e il figlio del tuo figlio tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do, e così si prolungano i tuoi giorni. Vedete là, uno dei segni della benedizione di Dio nell'Antico Testamento, la benedizione di Dio quando ce l'avevi nell'Antico Testamento, se avevi lunga vita e molti beni. Quindi, perché si prolungano i tuoi giorni? Alleanza, tu farai questo e Dio ti benedirà. Ascolta Israele e bada di metterli in pratica perché tu sia felice. Altro punto chiave, il cammino della legge di Dio. Tu sei felice? Stai facendo la volontà di Dio. Non sei felice? Non stai facendo la volontà di Dio. Non ci stanno altre, dice, ma tu sei troppo rigido, che ci stanno tante altre circostanze esterne. No, non ci stanno altre circostanze esterne. Se stai facendo la volontà di Dio sei felice, se non sei felice non stai facendo la volontà di Dio. Non è detto che sei un grande peccatore, ma ci sono delle aree della tua anima dove tu non stai obbedendo al Signore, c'è niente da fare. Questo sta scritto nella Bibbia ed è confermato, non serve la mia esperienza per confermare la Bibbia, però ad abbondanza mi è confermato dalla mia breve ma intensa esperienza pastorale. Quindi, perché tu sia felice, diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, altro segno della benedizione di Dio, famiglia numerosa, abbondanza. Vi ricordate quando Israele entra nell'Egitto? Dio benedisse e diventarono tanti, tanto è vero che a un certo punto cominciano la persecuzione, la schiavitù, dice, questi sono troppi, molto saliano con qualcuno dei nostri vicini, ci fanno fuori. Invece oggi la famiglia numerosa, maledizione, guai, ecco, no? Ecco. Come il Signore Dio dei tuoi padri ti ha detto, ascolta Israele, ecco qua. Questo è quello che ripeteva tutti i giorni Gesù 3 volte al giorno. Il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Ricordate quando chiedono a Gesù qual è il primo comandamento della legge? Cita questo. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, insegnarli ai figli. Tu devi insegnare a tuo figlio a amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, non il parroco, non i catechisti, il padre prima e la madre poi. Ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno. Avete visto gli ebrei che pregano davanti al muro del pianto, che hanno quel coso sulla fronte, tutti quei lacci al braccio? Te li legherai come alla mano, come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi. Avete visto quella specie di cosetta che si mettono in testa e che gli pende sulla fronte? L'avete mai visto gli ebrei che pregano davanti al muro del pianto? hanno questa specie di cinta legata intorno ai polsi e sulle mani, e questa cosetta è questo. Dentro quella cosetta che c'hanno, che gli prende dalla fronte, c'è un rotolino piccolo, piccolo, piccolo, dove stanno i 10 comandamenti. E se entrate nella casa degli ebrei, sugli ebrei osservanti, sugli stipiti della casa c'erano lo stesso. Ma se voi fate caso, io quando sono andato a Gerusalemme gliel'ho fatto vedere, per esempio alla porta ovest di Gerusalemme, a Jaffa Gate, ci sono, non mi ricordo il nome tecnico in ebraico, attaccati sugli stipiti della porta un rotoletto, che è il rotoletto della Torah. Non serve mettere in pratica queste cose alla lettera se poi la Torah non l'assorbi, quindi non l'osservi. Però, questo per far capire tante piccole cose, no? Ed anche il valore dei gesti esterni, cioè i farisei ne hanno fatto un disastro totale, cioè anche come vivono alcune cose, alcuni ebrei estremisti osservanti oggi, a me personalmente, che anche riconosco il valore dei segni esterni, dà un po' fastidio, perché sono molto caricati. D'accordo? Però sicuramente l'appartenenza a Dio va mostrata, insomma, noi non dobbiamo, e oggi meno che mai, non dobbiamo vergognarci di essere figli di Dio, insomma. Io vi ripeto, l'ultima volta sono stato in Terra Santa, me le sono guardate bene alcune cose, quindi vergogna. Ho fatto pure una predica la domenica, perché ci danno i punti. Cioè loro non si mega vergognano di essere religiosi, se ne vantano, lo ostentano in maniera, ripeto, quasi eccessiva. Tutti quanti gli uomini in divisa, tutti quanti i vestiti, tutte quante le donne precise, chi è sposata c'è il vero, chi non è sposata c'è il vero, tutti quanti in divisa perfetta. C'è un sito portoghese, mariamodestia.com, se va nel quartiere ortodosso ebraico e fa le foto, ce le può mettere tutte. Noi dovremmo essere i maestri loro, quindi, vabbè. Queste sono considerazioni però mie personali, quindi torniamo ai sacri testi. Ok, questo per quanto riguarda l'alleanza. Poi, boom, ecco. Andiamo a concludere con la lettura di alcuni brani del libro del Deuteronomio. Vedete Mosè che alza il serpente, l'asta col serpente, nella iconetta. Allora, dobbiamo leggere alcuni passaggi fondamentali del libro del Deuteronomio. Prima abbiamo letto il capitolo 6, adesso andiamo a vedere il 7. Anzitutto Israele, popolo consacrato. Cioè, nell'Antico Testamento questa idea della consacrazione, cioè, era fortissima. Noi oggi proprio consacrazione zero assoluto, d'accordo? Cioè, consacrazione, un oggetto consacrato vuol dire che tu, per esempio, di un bicchiere, se io consacro un bicchiere, vuol dire che quel bicchiere io non lo posso utilizzare per l'uso comune, non ci posso bere, lo posso usare se è consacrato per usi sacri, non per usi profani. Quindi un popolo consacrato vuol dire che mentre i pagani peccatori fanno tutte quante le sporcellate che fanno loro, tu non le fai, perché appartieni a Dio. Tu fai le cose che piacciono a Dio, a differenza degli altri. Quando noi siamo stati battezzati, siamo stati tutti quanti consacrati, perché il sacerdote ci ha preso il crisma e ce l'ha messo qui. La consacrazione primaria, la consacrazione battesimale. Quando Gesù Cristo disse a Santa, consacrate al Sacratissimo Cuore di Gesù, non è altro che, come dire, rinnovare in maniera soggettiva ciò che tu già dovresti vivere. Quando San Luigi Maria Monforte, che parla della vera devozione alla Madonna, dice consacrarsi totalmente alla Madonna, scrive, sapete che cos'è questa? La rinnovazione delle promesse battesimali, perché noi già ci siamo così. Allora, questo testo è molto istruttivo per comprendere l'idea biblica, teologica, quindi, dell'essere consacrati, che non è riservata ai consacrati in senso stretto, perché i consacrati nella vita consacrata, nella vita religiosa, radicalizzano questa dimensione, quindi dandosi completamente tutti, ma è una dimensione che è comune a tutti i figli di Dio. Allora, quando il Signore tuo Dio ti avrà introdotto nella terra in cui stai per entrare per prenderne possesso e avrà scacciato davanti a te molte nazioni, queste sono le sette nazioni pagane, gli Ittiti, gli Gergesei, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei, i Gebusei, sette nazioni più grandi e più potenti di te, quando il Signore Dio tuo Dio te le avrà messe in tuo potere e tu le avrai sconfitto, tu le voterai allo sterminio. Sterminio. Tenete presente, interpretazione pratica, chi sono queste sette nazioni straniere? Sono i sette vizi capitali. Quelli si devono sterminare. D'accordo? Con esse non stringerai alcuna alleanza e nei loro confronti non avrai pietà. Noi siamo spietati, siamo proprio cattivi, ecco, contro i vizi. Non costituirai legami di parentela con loro, non darai le tue figlie ai loro figli, non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché allontanerebbero la tua discendenza dal seguire me per farli servire a dei stranieri, e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi e ben presto si distruggerebbe. Con loro vi comporterete in questo modo: demolirete i loro altari, spezzerete le loro stele, taglierete i loro pari sacri, brucerete i loro idoli nel fuoco. Tu infatti sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Eccolo, il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Ora sapete, col Nuovo Testamento, allora, nell'Antico Testamento Dio si era legato a un popolo specifico, a un popolo proprio geografico, a Israele. Nel Nuovo Testamento questa barriera è caduta, cioè Dio non si è legato a un popolo, ma si è fatto un popolo, come dire, interculturale, però rispetto alla totalità del mondo è sempre un piccolo resto. Cioè, il popolo di Dio oggi, che sono i cristiani cattolici battezzati, sono una minoranza, e questa minoranza, anche se è di etnie diverse, quindi è africana, è asiatica, è europea, è americana, quello che vuole, dovrebbe distinguersi, cioè si dovrebbe riconoscere che tu sei un figlio di Dio, pur vivendo in maniera come dire, mischiata e confusa nel resto del mondo. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti gli altri popoli, ecco, guardate che bello, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatto uscire con mani potenti e con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del faraone e re d'Egitto. Vedete, adesso qui comincia la lettura di come si è costituito questo popolo consacrato al Signore. Riconosci dunque il Signore tuo Dio, egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire, non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi e le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Se avrete dato ascolto a queste norme, se le avrete osservate e messe in pratica, vedete l'alleanza, il Signore tuo Dio conserverà per te l'alleanza e la bontà che ha giurato ai tuoi padri, egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà, benedirà il frutto del tuo seno, il frutto del tuo suolo, il tuo frumento, il tuo mosto, il tuo olio, i parti delle tue vacche, i nati del tuo gregge, nel paese che ha giurato ai tuoi padri di darti. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli, non sarà sterile né il maschio né la femmina in mezzo a te, neppure in mezzo al tuo bestiame. Il Signore allontanerà da te ogni infermità e non manderà su di te alcuna di quelle funeste malattie d'Egitto che ben conoscesti, ma le manderà a quanti ti odiano. Questo Antico Testamento, questo per quanto mi riguarda, è stravero anche nel Nuovo. Per quando succedono un sacco di guai, i guai ce li andiamo ad attirare, a cercare con la nostra vita lontana da Dio. Punto. È vero tuttora oggi. Non è che la vita lontana da Dio, cioè, attenti, oggi mi hanno fatto una domanda tramite Facebook, perché mo tocca aprire pure quest'altro capitolo, si è già ampiamente aperto. Dice: padre, lei mi risponda almeno lei a questa domanda, ma Dio castiga o non castiga? In che senso castiga? La solita, perché è successo un macello, sapete che un po' di tempo fa Roberto De Mattei azzardava a dire che Dio castiga il mondo, cosa sta scritto nella Bibbia, dovunque, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, è per la vostra correzione che voi soffrite, Dio vi castiga, sta scritto nella lettera agli ebrei, quindi non soltanto nell'Antico Testamento come i modernisti dicono. Comunque, certo che Dio castiga. Dio castiga nel senso del casto mangere, cioè quando tu ti allontani da Lui, cioè Dio non ti può dare la benedizione, perché benedire, se voi ci state attenti, vuol dire bene, ma può darsi, è possibile che Dio dica bene di te se tu ti allontani da Lui, ti dica bravo, ma... cioè un figlio che si allontana dalle norme dei genitori, uno gli tira le orecchie, cerca di riprenderlo, gli dà due sganassoni, anche tre, anche quattro, tanto non succede niente. È la stessa cosa per il Padre Eterno con noi. Un figlio che è bravo, che è santo, che va bene a scuola, che è obbediente e tutte queste cose, il papà dice, ma che bravo, ma che bello, ma fa tante belle carezze, fa tante cose, gli compra la PlayStation, gli compra la PSP3, come se caspita si chiamano tutte queste cretinate qua, gli compra il motorino, la macchina, perché è bravo. Cioè, però in quella situazione lui l'ha detto, se mi ricordo bene, in un terremoto, qualcosa del genere. Allora, cioè, lì era un po', però su questa cosa qua di castigo, posso dire la mia, che una volta ha detto che secondo me non castiga, cioè, nel senso, siccome è permissivo, cioè non interviene su determinate cose, secondo me i castighi ce li diamo da soli tramite il peccato, no? Allora, c'è un'illuminazione, sì, questo in parte è vero, perché sulla modalità con cui, allora io rimasimo, capì questa cosa quando lessi, cioè, il segreto, fulmina, nel senso, quando lessi, no, quando, allora, quando lessi il segreto di Maria, nel segreto di Maria San Luigi dice questa cosa, dice che i demoni sono i suoi giustizieri, cioè sono coloro che seguono le sentenze della sua giustizia. Allora, quando noi facciamo il male, aumenta il potere che su di noi hanno i demoni, e i demoni ci vogliono fare del male. Allora, quando il grado di male arriva ad essere elevato, Dio lascia che i demoni ci facciano il male che ci vogliono fare. Lui glielo lascia fare non perché ci massacrino, ma perché attraverso quella sofferenza noi possiamo ravvederci. Quindi, in questo senso è giusto, sì, quello che sta dicendo. Certo, è sempre colpa nostra. Certo è colpa, siamo noi che ci siamo andati a cercare. Certo. Non è che mi posso arrabbiare con chi perché mi è successo quello. Chi a causa del suo mal pianga se stesso, dice il proverbio, cioè, dice il proverbio popolare. Il castigo non è diretto. Non dobbiamo certamente pensare al castigo di Dio in maniera infantile, cioè allora, tu mi hai fatto questo dispetto, mo te la faccio pagare. Questo è ovvio, Dio non è così. Però se dicendo soltanto, cioè non facendo, dicendo per televisione, è un castigo di Dio, e non poi dicendo di dietro tutto un ragionamento particolare. Una certo, bisogna dare delle chiavi di comprensione, cioè il fatto che alcuni concetti siano stati travisati anche in passato non significa che... Poi il professor De Mattei ha anche aggiunto che non è che tu puoi dire è arrivato lo tsunami in Giappone perché i giapponesi sono stati cattivi e sono stati castigati, cioè noi possiamo pensare e dobbiamo pensare che con tutto quello che stanno succedendo uno al giorno, quindi ecco, quindi, cioè, però Gesù dice anche nel Vangelo, che pensate, quelli che gli è cascata addosso la torre erano più colpevoli di tutti? No, se non vi convertite perite tutti quanti allo stesso modo. Quindi Gesù fa comprendere che la teologia tra virgolette del castigo è vera, cioè nel senso che i peccati dell'uomo gli attirano su di te le sciagure, però che nessuno può mettersi a dire, ah, visto quello, ah, mo adesso quello a Genova è venuto, se Cristo sa che bestie che sono i genovesi, tanto perché domani daria pure a te domani. Non è che bestie che sono i genovesi, che i genovesi sono tirchi. Ecco. Dicono sempre un sacco di parolacce, le parolacce tipiche dei genovesi, allora loro vengono puniti e gli altri no. Certo, no, certo. La colpa quasi sempre, è sempre nostra. È sempre nostra, quindi non è che è un castigo, uno se poi se la prende col Padre Eterno che dice ma castigato, quello tutto lo si andava a cercare. Pensiamo, cioè, in una zona sismica, facciamo tutte case antisismiche e nessuno muore, tra virgolette. Right, allora, prima di concludere c'è un altro passo bellissimo, che è la lettura teologica del libro dell'Esodo. Speriamo di fare in tempo a finire, che è Deuteronomio 8. Lo leggiamo rapidissimamente. Allora, abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do, perché diventiate numerosi ed entriate in possesso della terra che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri. Attenti, ricordatevi di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Perché c'è stato? Per umiliarti e per metterti alla prova e per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame e poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Vedete Gesù? Tentazione. Di a queste pietre che diventino pane, non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Allora, perché nel deserto e perché la fame? Perché imparassi che l'uomo non vive di solo pane ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Quindi quando voi fate, e oggi tutti lo state facendo, il digiuno, lo si fa anche per questo motivo. E col digiuno noi diciamo al nostro Signore: io non sono fatto soltanto di panza, che deve essere piena, ma la cosa più importante è che io ascolti la tua parola e che abbia te come amico. Il tuo mantello non ti sia logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi anni. Vedete, riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. Corregge o castiga sono sinonimi nella Sacra Scrittura. Quindi saltiamo un pochino, versetto 11: guardati dal dimenticare il Signore tuo Dio, così da non osservare i suoi comandi, le sue norme, le sue belle leggi che io oggi ti prescrivo. Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai costruito delle belle case e vi avrai abitato, quando avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi e crescere il tuo argento, il tuo oro abbondare in ogni cosa, il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, vedete tutte le tentazioni, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri per umiliarti e per provarti e farti felice nel tuo avvenire. Quindi perché tutto questo tempo nel deserto? Perché Israele imparasse che Dio esiste e che Dio si prende cura di lui, in modo tale che nella prosperità non si fosse poi dimenticato che Dio è la causa di ogni bene e che a lui ci si deve rivolgere, ringraziarlo per ogni bene che si ha. Quindi quando il Signore ti fa passare attraverso esperienze dolorose, attraverso fatti di questo genere, eccetera, eccetera, è sempre con questa finalità. Sempre. Perché noi possiamo sperimentare dentro quelle situazioni dolorose la mano di Dio, che Dio provvede, che non ti lascia da solo, che non ti schiacciano le situazioni anche più dolorose e anche più difficili. Ok, l'ultima cosa prima di concludere è la morte di Mosè, così si chiude il libro dell'Esodo al capitolo 34. Attenzione, Mosè muore sul monte Nebo. Mosè non entra nella terra promessa, lo sapete perché? Vi ricordate quando c'è l'episodio dell'acqua che sgorga dalla roccia? Se vi andate a leggere nell'altra versione che si trova nel libro dei numeri, io non sono riuscito a ritrovarla, ve la do casomai la prossima volta. Comunque chi ha la Bibbia di Gerusalemme, se recupera il brano dell'acqua sgorgata dalla roccia, a fianco trova scritto numeri. Accendiamo un attimo la luce, qualcuno lo va a riprendere, che adesso lo andiamo un attimo a ritrovare. Allora, l'acqua dalla roccia è Esodo 17, sicuramente vicino c'è un riferimento al libro dei numeri. Numeri 20, esatto. Lo andiamo a trovare subito, va? Lo andiamo a trovare subito. Così ve lo leggo un attimo, perché questo è molto costruttivo e chiudiamo eventualmente così. Se uno va a numeri 20, rispegniamo la luce, sì. Allora, l'episodio è lo stesso, non mancava l'acqua, versetto 2, per la comunità, eccetera, eccetera. Magari fossimo morti, allora Mosè dice: prendi il bastone, e tu e tuo fratello convocate la comunità e parlate la roccia sotto i loro occhi e chiedete di dare loro acqua. Mosè prese il bastone, eccetera. Adesso andiamo, versetto 11. Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte, e ne uscì acqua in abbondanza, ne bevvero la comunità e il bestiame. Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: poiché non avete creduto in me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli israeliti, voi non introdurrete questa assemblea nella terra che io le do. Gravissimo peccato, eh? Abbattuto due volte anziché una, non è entrato nella terra promessa. Capito? Ecco, questo per dire, insomma, questo è gravissimo. Cioè, se è giocato l'ingresso, non è entrato Mosè, eh? Se andrà a prendere Esodo 34 e Deuteronomio 34, Mosè muore sul monte Nebo, gliela fa vedere, possiamo anche leggerlo. Dio lo porta su questo mondo e dice: adesso dagli una bella occhiata, guardalo bene. No, non è questo. Ah già, questo è il Numeri. Dice: guardala bene questa bella terra. Eccola qua, guarda. Allora, Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, eccetera, eccetera. Il Signore, versetto 4, gli disse: questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, io la darò alla tua discendenza. Te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Attenzione, perché il nostro Signore, quando dà dei doni, può pare che sia abbastanza severo, nel senso che se uno sgarra, ci stanno delle conseguenze. Quindi stiamo attenti a non farla troppo facile, che andiamo tutti in paradiso, perché, ma speriamo di andare tutti in paradiso, però insomma non è proprio tanto facile andare direttamente in paradiso, stante alle testimonianze che ci vengono non soltanto dai santi ma anche dai testi rivelati. E possiamo per oggi fermarci qui. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.